Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E così mi misi a pregare che non le tagliassero la coda, che qualcuno la trovasse e si prendesse cura di lei meglio di come avevo fatto io. Mi sentivo addosso la sua paura, la sua delusione. Il giorno dopo i miei mi comprarono un'altra pecora. Sorrisi per farli contenti, ma quella finì subito in fondo alla valigia. Sono Elisa, ho 29 anni, vivo e lavoro a Milano, amo un sacco questa città e mi piace andare in giro in bicicletta. Ho letto qualche anno fa che esiste nel nord del Canada, non so esattamente in che area, uno scoiattolo, un genere di scoiattolo particolare che non ha nulla di diverso dagli altri scoiattoli. Immaginatevi uno scoiattolo proprio quelli che avete in mente quando siete stati o se avete visto una foto di Central Park a New York, quello lì. Questo scoiattolo però tiene sempre con sé un piccolo bastoncino, lo tiene per tutta la stagione invernale, quella in cui non può uscire, cioè ha già recuperato le provviste e quindi deve rimanere chiuso nella sua tana a mangiarsele, in sostanza. Si tiene questo bastoncino che usa per rosicchiarlo e per rifarsi i denti, probabilmente, per tenerseli allenati. Quel bastoncino lì lo potrebbe tenere con sé, anche l'anno dopo, nel senso che non sono minuscoli e non li consuma tutti in quella stagione. Ma ad ogni cambio di stagione lui lo abbandona e ne prende uno nuovo. Oggi si parla di quella cosa lì. Non si parla di quello scoiattolo, ovviamente, ma si parla del momento in cui ci troviamo ad abbandonare le cose del nostro passato, a lasciarle andare. In realtà la storia di Elisa è la storia di una dimenticanza. Elisa un giorno è piccola, è con i suoi genitori, è in Argentina e perde una cosa piccola ma a cui lei tiene moltissimo. È un peluche. Non la perde di proposito, ovviamente. Eppure io ho la sensazione che, anche se non credo nel destino, ci sia sempre una parte di intenzionalità nei momenti in cui perdiamo qualcosa che ci è appartenuto e che ci è stato caro. Ecco, proprio quella cosa lì è la protagonista della storia di oggi. È lasciare andare dei pezzi, anche piccoli, della nostra vita. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it se volete scrivere in diretta. C'è anche un profilo Facebook che è sempre quello. È Matteo Caccia, io sono qui. Vi abbiamo già spiegato perché non è voi siete qui, perché non si può cambiare nome dopo quanti? Tipo dopo 100 contatti mi pare, non si può più cambiare nome al profilo. 349-238-6666, hanno già scritto in diversi, Lara ad esempio. Lara dice, io di proposito ricordo che ho lasciato andare solo poche cose, apparentemente prive di valore, mentre di importanza immensa erano per me. La volta in cui finii il mio Erasmus e lasciai alla mia padrona di casa le lenzuola che mi ero portata dall'Italia, accuratamente lavate e stirate. Stavano bene in quella stanza e non aveva senso riportarle indietro. Eppure la volta che ho permesso ad una coppia di bastoncini da sushi di uscire dalla mia vita, sono stati il segno di una svolta. Se avevo lasciato andare loro, potevo andare a lasciare chi me li aveva donati. Ecco, è più o meno quello che fa lo scoiattolo. Piglia quel bastoncino che si è tenuto per tutto l'inverno e lo lascia andare. C'è un pezzo magnifico di uno dei film d'animazione più belli degli ultimi anni, ne avevo già parlato credo l'anno scorso, che si chiama Up, della Pixar, in cui c'è questo uomo anziano che decide di andare a fare un viaggio che era il viaggio che voleva fare con sua moglie che è mancata da qualche anno, e quindi lui per ricordarla vuole fare questo viaggio, solo che il viaggio lo fa con la sua casa attaccata a dei palloncini che la staccano dal suolo e la portano in queste cascate dove lei voleva andare qualche anno prima. A un certo punto però i palloncini si sgonfiano e lui si accorge che la casa non riesce più a volare, e allora fa, in una scena struggente e meravigliosa, si libera di tutti gli oggetti che sono in quella casa, che sono oggetti suoi e della sua ex moglie, sono quel piccolo pezzo di zavorra della sua vita. 349-238-6666, se li avete persi quegli oggetti, ma magari da qualche parte sapete che l'avete fatto di proposito. La storia di Elisa parla di una piccola pecora di peluche e parla di una dimenticanza. Quella è stata la sola volta in vita mia in cui mi ricordo di avere pregato. E ho pregato per quasi 3 ore, con gli occhi incollati al cielo, oltre il finestrino, a fissare quella stella che mi sembrava più luminosa delle altre. Quella che forse davvero poteva contenere un Dio creatore di tutto e quindi capace di tutto. Perfino di sentire me, così piccola e così lontana. Per quasi 3 ore gli ho chiesto sempre la stessa cosa, con la costanza e la fiducia cieca che solo un bambino riesce ad avere. Ti prego, fa che Pecorì stia bene. Avevo 8 anni, ero alle elementari. Pregare voleva dire quello per me, fondamentalmente, concentrarmi veramente tanto sulla richiesta, no? L'ho rifatto quando ne ho avuto bisogno, quando è stato male qualcuno che mi era molto caro, però non ci credevo come quella volta. Quella volta proprio mi ricordo che ero appiccicata al finestrino, guardavo la notte, guardavo quella stellina lassù e dicevo: tu mi puoi aiutare. Pecorì era una pecora di peluche. Io avevo 8 anni e quel giorno l'avevo persa per sempre. Quei piccoli peluche senza anima né significato che riempiono le vetrine dei negozi per bambini. Quei piccoli peluche che solo un bambino può rendere vivi. Dandogli prima un nome, poi un carattere, una forza e anche una debolezza. E io ero disperata perché quella stessa debolezza che le avevo dato era la mia debolezza. E soprattutto le sue paure erano le mie. Ecco perché credevo che lei non mi avrebbe mai perdonata. Perché io per prima non sarei stata capace di perdonarmi di averla dimenticata in quel letto. Era bella Pecorì. Ce l'avevo fin da quando ero nata. Era un agnellino sdraiato, con le zampine allargate verso i 4 punti cardinali. Aveva il muso tenerissimo, era affettuosa e piatta. Potevi usarla come cuscino. Le intrecciavo le zampe anteriori e sembrava un esserino imbronciato. Se poi invece le intrecciavo anche quelle posteriori, assomigliava a toro seduto. Faceva molto ridere. Veniva con me ovunque, Pecorì, anche in quel viaggio in Argentina. Mi ricordo che avevamo visitato un'estensia. Era pieno di cavalli, di cani e di pecore. Avevamo anche visto la tosatura e anche come tagliano loro la coda con la fiamma. Era stato uno spettacolo orribile. E la mattina dopo eravamo partiti e io l'avevo lasciata nel letto. Non ricordo come passammo la giornata, ricordo però che la sera eravamo in viaggio verso la città e improvvisamente mi accorsi di non averla con me. Scoppiai a piangere. I miei si spaventarono molto, quando capirono che si trattava di Pecorì si tranquillizzarono e cercarono di rassicurarmi. Dissero che avrebbero telefonato, che l'avrebbero fatta spedire. Non capivano. Non capivano che il problema non era recuperarla. Era averla dimenticata. Tu pensi è un pupazzo, non è successo niente, però in realtà il rapporto con la cosa inanimata è una cosa che appartiene veramente all'infanzia, cioè non avrai mai più il rapporto con qualcuno o qualcosa che non ti chiede niente e c'è sempre. E così mi misi a pregare che non le tagliassero la coda, che qualcuno la trovasse e si prendesse cura di lei meglio di come avevo fatto io. Mi sentivo addosso la sua paura, la sua delusione. Poi sì, il giorno dopo i miei me ne comprarono un'altra. Io sorrisi per farli contenti, ma quella finì subito in fondo alla valigia. Poi al ritorno dalle vacanze a scuola, un giorno ci assegnarono un tema. E io scrissi di lei, scrissi di Pecorì. Non ricordo esattamente cosa raccontai. Ricordo però che i miei genitori si misero a piangere quando lo portai a casa. E ricordo che papà mi chiese scusa per non aver capito. Settimana scorsa sono stata da mia mamma a togliere un po' di cose perché deve fare dei lavori. Sono entrata in camera sua e sul comò, insieme alle foto di noi da piccole e di lei e di papà prima che si separassero, c'è una pecora di peluche. Brutta, anonima, totalmente indegna dell'altra. È quella che mi avevano comprato quel giorno. Sono passati 20 anni. Non ho chiesto a mia mamma come mai sia ancora lì, perché so che semplicemente alzerebbe le spalle, farebbe un sorriso e direbbe: boh, così. I don't know. perdere qualcosa ci fa sentire un po' più soli. Sì, ci fa sentire stupidi, quello sì. La prima sensazione è quella di sentirsi stupidi e distratti magari, però il sentimento più profondo è quello di sentirsi un pochettino più soli. Elisa nel suo racconto parla esattamente di questa cosa qua. Non parla solo di un peluche a forma di pecora lasciato in un letto in una stanza in Argentina. No, parla di una piccola parte di sé abbandonata chissà dove. Parla delle sue paure più intime e della speranza di riuscire a perdonarsi. 2 anni fa mi sono distaccato giorno dopo giorno di 120 oggetti che mi erano appartenuti e che mi ero messo a vendere uno ad uno qui, su questa radio. Di alcuni mi è spiaciuto più di altri, ovviamente questo però è normale. Ma il primo oggetto che ho venduto è stato quello più difficile. Un po' perché era il primo, ovviamente, e un po' perché era un pezzo della mia infanzia. E poi era anche diventato il posto in cui avevo trovato la fine della storia con la persona con cui stavo. E quando ho letto il racconto di Elisa e della sua pecora di peluche, mi è venuta in mente esattamente quella bottiglia lì, quell'oggetto. Una bottiglia di vetro che ho venduto come prima cosa, il 18 gennaio del 2010. Da bambino quella bottiglia era sempre stata sulla tavola di casa. Casa dei miei, quindi casa mia anche. Era una bottiglia di quelle, avete presente, quelle con il tappo ermetico, in cui si versava la frizzina, e poi si beveva quell'acqua che sembrava quasi salata. Aveva un disegno floreale e il tappo bianco, con la gommina arancione. Ricordo che da piccolo ero diventato l'esperto in casa della frizzina. Nessuno la faceva come me. Non ne facevo uscire nemmeno un granello e poi la chiudevo al volo, con un gesto che non faccio da anni ma che sono sicuro è rimasto nella memoria del mio corpo. Sì, sono sicuro che se dovessi gasare una bottiglia d'acqua versandoci dentro la frizzina la farei in un attimo, con la destrezza di 25 anni fa. Ecco, quella bottiglia me l'ero portata a Milano, quando ero venuto a viverci. E anche se non usavo più la frizzina, ci mettevo dentro l'acqua del rubinetto. Ecco, poi in quella bottiglia, anni dopo, ci avevo trovato una lettera, che era la lettera con cui la mia ex mi lasciava. Che idea di merda. Avevo pure fatto fatica a sfilarla quella lettera da là dentro. Ecco, quello fu il primo oggetto di cui mi liberai, perché da quel giorno non l'avevo più usata. E mi sembrava addirittura che l'aria che conteneva fosse viziata, come se per cambiare davvero aria io avessi dovuto liberarmi di quella contenuta in quella bottiglia. Da quando la misi in vendita l'asta durò 10 giorni su eBay, come poi è accaduto per tutti gli altri oggetti. Ma quello fu il primo che mi trovai a spedire, ovviamente. E non lo diedi al corriere, come ho fatto con tutti gli altri. Andai in posta personalmente a spedirla. La persona che l'ha comprata vive, o almeno viveva a quell'epoca, nelle Marche, e mi scrisse che l'aveva acquistata per lo stesso motivo per cui io me ne liberavo. E io non ho mai capito esattamente cosa volesse dire, ma non feci altre domande. Avevo preso un imballo apposta per spedirla, una specie di tubo foderato e pieno di plastica, gonfia d'aria. Ce la infilai dentro senza guardarla, la misi nello zaino, presi la Vespa e andai verso la posta. Feci la coda allo sportello e la appoggiai in quella teca di vetro, avete presente, quella con due porte, che ne apri una, metti dentro, chiudi e l'altro di là apre l'altra. Il tizio allo sportello la prese e la mise in un cesto. Io non sono esattamente un sentimentalone, però non sono nemmeno uno cinico completamente. E soprattutto io avevo deciso che quelli erano solo oggetti e non potevo rammaricarmi per la mancanza di un oggetto, che il loro valore va oltre il fatto di essere una cosa. Me ne accorsi qualche giorno dopo, in casa, quando mi resi conto che quell'oggetto non c'era più. E mi accorsi che mi mancava in qualche modo. Mi mancava quel cilindro di vetro con un tappo di gomma, però mi mancava ancora di più quell'aria viziata che conteneva. Quella che volevo cambiare. Perché quell'aria era quella che avevo respirato per un sacco di tempo. Da quando ero bambino fino a quando ero stato lasciato. E mi mancava quell'aria, un po' stantia, quell'aria che mi aveva tenuto in vita per più di 20 anni. Quel giorno ho percepito l'aria fresca e nuova intorno a me, ma anche la solitudine che mi aveva lasciato quell'oggetto. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS. A 30 anni i miei hanno venduto la casa dove sono nato, mi scrive Dado da Milano. Sono andato nella mia camera, perché vivo già fuori casa, ho fatto 3 sacchi neri con dentro tutta la mia adolescenza, diari, cartoline, lettere, giochi, e ho buttato via tutto. 349-238-6666. Sono arrivato a 47 anni. Questo, belli, mi piacciono i messaggi fuori contesto, sono sempre straordinari. Che non c'è... cioè, sembra che non c'entrino niente, però evidentemente qualcosa c'entrano, perché Sandro scrive: sono arrivato a 47 anni pensando di non desiderare figli. Dall'altro ieri so che diventerò padre e non vedo l'ora di comprare montagne di peluche. Guarda Sandro, siamo tutti felicissimi per te. La domanda è, però, è che c'entra esattamente col fatto di liberarsi delle cose? O forse stai già pensando che tuo figlio si libererà di quei peluche che tu gli hai regalato? Tra l'altro, fammi fare due calcoli. C'hai 47 anni, Sandro. Quando tuo figlio avrà la possibilità di liberarsi di quei peluche, tipo attorno ai 15, tu ne avrai 62. Giusto? Bocca al lupo. In Tanzania, sulla riva del mare, trovai un cappello da pescatore. Mi accompagnò per tutto il viaggio. Volevo portarlo a casa, ma l'ho dimenticato a Milano sull'aereo. La cosa mi fa ancora sorridere. Beato a te. 349-238-6666. Andiamo... ah, abbiamo Elisa. Abbiamo Elisa, giusto? Pronto, Elisa? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Dove ti trovi, Elisa? Sono per strada, sono scappata fuori dall'ufficio. Che lavoro fai? Faccio eventi legati al cibo. Scusami, ti ho perso. Eventi? Legati al cibo. Ah, ok. Parliamo di cucina. E c'è un sacco di lavoro per gli eventi legati al cibo? In questo momento sì, c'è un sacco di interesse soprattutto. Il cibo tira, eh? Tira. Vabbè, vorrei chiederti un sacco di roba sugli eventi legati al cibo, perché già mi solleticano le mani. Ma tipo fiere? Sì, congressi, come quelle cose che fanno i dottori, ma tra cuochi. Ah. Si fanno davvero queste cose qua? Sì. E quindi sì, si cucina, invece che parlare di farmaci si parla di materie prime, no? Sì, si cucina, il punto è che non si mangia, perché se ne parla, e questo è un po' il limite, però. Senti, veniamo a sta pecora, Elisa, che con tutta, diciamo, la malinconia che ci riempie per l'abbandono di questa pecora, che fine ha fatto? L'altra è sempre da tua madre, invece. L'altra è lì, ed è bruttissima, cioè sembra una... un pallone vecchio di quelli che sono bucati e si sono un po' sgonfiati da una parte, ma non del tutto. Quanti anni fa è successo tutto ciò? 20, ne avevo 8, ne avevo 21. Sì. 21 anni fa. Ed eri in Argentina, giusto? Ero in Argentina perché la mia mamma è argentina. Ed eravamo in vacanze, appunto eravamo stati in questo posto dove era pieno di pecore. E io pensavo, che bello, l'ho portata in questo posto e lei vede tutte le altre pecore ed è felice. Ma in realtà... cioè, non era bellissimo, perché vedi che gli mettono i cartellini nelle orecchie, gli tagliano la coda. Certo, diciamo, ma allora, scusa, c'è una parte di intenzionalità in questo abbandono, nel senso che a un certo punto avevi pensato che probabilmente era meglio lasciarla al suo destino? Ma no, forse alle sue amiche, forse ho detto, qui c'è più compagnia che da sola con me. C'è un sacco di poesia, Elisa, nell'immaginare la pecora con le sue amiche. Senti, che cos'è un'estensia? Un'estanzia. Perdonami. È una specie di fattoria. Ah, ok, semplicemente. Elisa, io ti terrei chiaramente tutto il giorno qui, però devi andare a lavorare, e vorrei chiederti un'ultima cosa. C'è un oggetto invece adesso di cui tu ti libereresti, di proposito? No. Dovrei liberarmi di un po' di libri, ma non lo farei mai. Tu vivi da sola o vivi coi tuoi? O... no, vivo da sola in un monolocale, probabilmente per quello. In realtà l'ho già dovuto fare diverse volte, tra i vari traslochi da fidanzati, poi mamma, poi da sola, poi... piano piano te ne liberi. Ho un sacco di scatole che dovrei aprire e probabilmente svuotare, però finché ci stanno tengo le scatole, quei ricordi. Elisa, ti ringrazio per il tuo racconto, per la telefonata, e viva gli eventi, come si chiamano? Eventi culinari. Enogastronomici. Sì. Grazie mille. Grazie. In bocca ciao, al lupo. Matteo. Ciao Elisa, ciao, grazie. Adesso la borsa. Cioè, faccio sempre quello che non sa cosa succede adesso, Paolino, lo so. E invece c'è la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato, Elisa è esattamente come me la immaginavo, un po' dal racconto e un po' dalla chiacchiera che abbiamo fatto al telefono. Corre libera sulla spiaggia a piedi nudi, ma non d'estate, altrimenti d'estate sarebbe facile. Credo sia, dalle luci direi primavera o magari autunno, comunque non è proprio la stagione per stare al mare. È mano nella mano ad un ragazzo che forse è il suo fidanzato, forse non lo so, comunque ha su un vestitino corto, cammina con la testa abbassata, sorridendo, e la collana che le sbatte un po' sul petto. Sono arrivati dei messaggi che mi fanno capire che molte persone, più che liberarsi degli oggetti, li bruciano. Il fuoco va per la maggiore, devo dire. Ho bruciato tutto. Oggi mi sembra di non avere un passato da raccontare. Mi sono separato 12 anni fa. Sono due messaggi diversi, eh? Nicola, mi sono separato dopo 12 anni. Ho bruciato tutto, anche la valigia del viaggio di nozze. Ora non conservo nulla. Proprio fuoco cammina con me, no? Cioè, liberiamoci. Ma non liberiamoci, distruggiamolo. E poi, liberarsi delle cose non è poi così complicato come liberarsi delle persone. E se poi ci se ne libera per 18 anni e si commette l'errore di cercare di riappropriarsene, la catastrofe non può esserne che l'epilogo. Eh? Potresti riscriverlo questo messaggio, perché o l'ho letto male io o è scritto male. Guarda, se me lo riassumi anche solo in due righe, 349-238-6666. Mio padre ammassa oggetti su oggetti, pensando che siano tutti utili. Io mi sto sforzando di non fare lo stesso, però perdere qualcosa sapendo di non averlo sfruttato a pieno mi angoscia, quindi non butto via niente pure io. Questo è un po' come quando hai pagato una pizza intera e non hai più fame e dici però l'ho pagata. Forse anche questa fetta finale la devo mangiare. Oppure giochi a tennis per due ore e dopo un'ora e mezza non ce ne fai più. Però abbiamo pagato anche l'ultima mezz'ora, ragazzi. E quindi bisogna giocarla. Claudia, mi sono liberata di tutti gli oggetti legati al mio ex. CD, foto, contatti, regali suoi, ma lui resta. Forse serve altro? Senti, guarda, senti gli altri che hanno mandato l'SMS. Devo mettere un paio di consigli a proposito del fuoco. A proposito invece degli ex che si lasciano e che si liberano degli oggetti, è uscito l'anno scorso per Rizzoli un libro straordinario, che non è esattamente un libro. O meglio, no, certo che è un libro, però non è un libro nel senso che non è un romanzo. È immaginato come il catalogo di un'asta. Il titolo infatti è Importanti oggetti personali e memorabilia dalla collezione di Leanor Dulan e Harold Morris, compresi libri, abiti e gioielli. Sabato 14 febbraio 2009, New York, casa d'aste Strachan & Quinn. In sostanza l'autrice di questo libro, che è pura fiction, ha immaginato che due persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni, adesso forse non è nemmeno specificato, a cui lei ha dato chiaramente un'identità, lui è un fotografo mentre lei è un'esperta di cucina per il New York Times, ha immaginato che queste due persone si fossero messe insieme, che avessero vissuto e convissuto insieme, e al momento di lasciarsi avessero messo all'asta tutti gli oggetti che a loro erano appartenuti o che avevano fatto parte in quel modo, in qualche modo, di quella storia. E il libro è proprio un catalogo vero e proprio, quindi ha le foto con un numero che è il lotto di riferimento, per cui vi faccio un esempio: lotto 1171, coppia di gemelli e bigliettino, coppia di gemelli a forma di aeroplano regalata da Leanor a Harold il giorno del ringraziamento 2004. Sono accompagnati da un bigliettino fatto a mano, si legge: i momenti di quest'anno che ho amato di più. 1. Quando sei andato tu nel ripostiglio perché a me non andava. 2. Quella volta che mi hai accompagnata fino alla porta, anche se eri in ritardo. 3. Guardarti mentre fai le valigie. È un libro strano perché, ripeto, non è un romanzo e non si legge in maniera semplice. Però, anche se non vi state lasciando, dategli un occhio. E questo è il modo in cui inizia. Inizia con un'introduzione che probabilmente è stata inserita dalla casa d'asta e con una lettera che lui, anni dopo, manda a lei. Abbiamo deciso di porre come introduzione a questo catalogo il testo di una cartolina scritta nel 2008 da Harold Morris, i cui effetti personali sono qui all'asta, insieme con quelli di Leanor Dulan e con altri oggetti ricevuti in dono dalla coppia da amici e familiari. Casa d'aste Strachan & Quinn, 2009. Cara Leanor, il mese prossimo sarò in città per qualche giorno per un lavoro. Sarebbe bello vederti. Ti ho scritto diverse lettere, ma sono ancora qui, nel cassetto. Ti ricordi quando un anno fa ci siamo incontrati per caso all'Oyster Bar e la sera tornando verso casa mi hai chiesto: fra tutte le storie che hai avuto, ce n'è una che rimpiangi che sia finita? Ecco, io non ho risposto, ma vorrei aver detto sì, tu. La mia risposta sarebbe stata questa. Non so se adesso stai con qualcuno. Jacqueline e io ci siamo presi una pausa. Sono solo di nuovo. Tuo, Al. Can't be fun if you don't put in the work. Stick with the honey, stay as long as it's worth. Burrows in the forest, digging under your skin. Evergreens and posers, dropping needles to win the fling. Red and gray. Allora, c'è da fare una rettifica per Sandro, che è il padre 47enne. Cioè, in realtà, mica tanto 47enne, perché forse se il figlio gli nasce tra 9 mesi, magari sarà anche 48enne. Dice che il senso del messaggio era che lui ha deciso di liberarsi della paura di essere padre. Voilà. E poi, mi ricordo quando a 3 anni ho buttato di proposito il ciuccio dal finestrino dell'auto. Gianluca, però io non credo che tu a 3 anni, Gianluca, volessi liberarti del tuo passato buttando dal finestrino il ciuccio. Credo che fossi solo un bambino, no? E i bambini buttano le robe dalle mani. Mi sono trasferita a 50 anni dal mio compagno. Abbiamo un pubblico, degli ascoltatori che ci pensano molto bene prima di fare le cose, Prima di fare un figlio aspettiamo un po'. Prima di trasferirci dal compagno anche. Mi sono trasferita a 50 anni dal mio compagno e ho dovuto chiudere la mia casa e scegliere cosa portare e cosa buttare. È stato straziante. Cristina, da quando avevo 12 anni, inscatolo tutte le mie cose, le metto in soffitta e le apro dopo 25 anni. La sensazione della liberazione con una punta di codardia. Però aspetta, oggi forse sono io che non capisco i messaggi. Allora, da quando aveva 12 anni lui inscatola tutto e poi ogni 25 anni li riapre, oppure lo ha riaperto adesso dopo 25 anni? Facciamo che ci immaginiamo che lui abbia tipo 80 anni, e quindi l'ha aperto almeno 25, 50, almeno 3 volte, Almeno 3 volte ha aperto tutti gli scatoloni in soffitta. La sensazione della liberazione, con una punta di codardia. Vabbè, ho fatto finta di capirlo, ma non ci sono arrivato lo stesso. Oggi mi sono liberato, Paolo. Oggi mi sono liberato della macchina di mia moglie e ne ho comprata una che piace a me. Adesso devo convincerla che è la macchina giusta per lei. Questo è un altro della serie messaggi fuori contesto, Paolo, ed è per questo che lo adoro, perché non è esattamente quello di cui stiamo parlando, ma va bene uguale. Voi siete qui, @radio24.it. Oggi ho letto un racconto di quelli che mi avete mandato, che era un po' era straziante e un po' era meraviglioso e un po' c'entra con quello di cui abbiamo raccontato oggi. È la storia di una donna che racconta la sua salita verso un, adesso non mi ricordo per quale cima, comunque è sull'Himalaya, è proprio in alto, sono 5000 e passa metri, ed è seduta su questa cima, si guarda indietro e si ricorda cosa era accaduto 2 anni prima, quando 2 anni prima, esattamente quel giorno lì, le era stato diagnosticato una malattia terribile. 2 anni dopo era su quella cima, era su quel suo compagno, era felice, e quando l'ho letto un pochettino questa mattina ho pianto. Grazie a Paolino Corleoni che ha fatto questo programma quest'oggi e anche gli altri giorni. Grazie a Margherita Ina, Tiziano Bonini e a Stefano D'Andrea che scrive con me questo programma. La storia di oggi era la storia di Elisa e parlava di quella cosa lì, di liberarsi delle cose del passato. La storia di domani invece è la storia di Andrea e racconta dell'imparare a pensare. Iniziare a pensare è un po' come guidare una macchina. Arrivi a 18 anni, ti dicono che sei adulto e fai la patente. E da quel momento in poi puoi guidare, ma non sai ancora guidare bene. Ecco, lo stesso vale per il pensiero. Esci dall'adolescenza, ti vedono grande, grosso ed educato e pensano che tu sia un uomo, di quelli che sanno usare la testa.